Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: torneremo sullo Stato e sul fisco oppressivo, come viene chiamato da più parti, vessatorio, come viene chiamato da altri. Perché? Perché oggi nel presentare il decennale delle agenzie fiscali il ministro Tremonti e il suo braccio operativo in tema fiscale, mi riferisco al direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, hanno ammesso e detto e riconosciuto che occorre mollare sulle cosiddette ganasce fiscali. Befera ha precisato che le novità annunciate oggi dal Ministro dell'Economia diventeranno, attraverso un emendamento al decreto sviluppo, legge, e che l'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate in realtà è quello di ottenere un pagamento spontaneo da parte dei contribuenti. Che cosa è successo? Ce ne siamo occupati anche la settimana scorsa con la obiettivamente imponente manifestazione a Cagliari. Da un lato si lamenta un eccesso di controlli, non è tanto l'ammontare o l'aliquota fiscale in senso stretto, è il fatto è quanti controlli un imprenditore deve avere, a quante pratiche burocratiche deve rispondere, e si dice tassateci ma almeno fatelo una volta sola, che i controlli arrivino, ma che arrivino una volta sola, le 280 ore spese in media da un imprenditore all'anno per adempiere alla burocrazia fiscale. E dall'altro sta facendo molto scalpore un'iniziativa presa da Equitalia, e cioè di andare sostanzialmente a pignorare immobili e beni quando c'è un contenzioso fiscale. Questo, come nel caso sardo, rischia di mettere sul lastrico in attività di piccoli imprenditori, soprattutto artigiani e imprenditori, con un rischio anche di carattere occupazionale. Lo dico, ne parleremo in apertura, ben sapendo che la linea di questo programma non è mai cambiata e non cambierà, ossia che il problema italiano è un eccesso anche di evasione fiscale. Abbiamo un record a livello europeo, 200 miliardi stimati di imponibile che viene evaso, e con conseguenza che mancano nelle casse dello Stato circa 100 miliardi di euro. Basterebbe portare questo tasso di evasione a un livello più europeo, più francese, per sostanzialmente, anche se riuscissimo a recuperare la metà di quanto non viene versato, avremmo sistemato tutti i problemi di deficit di questo paese, avremmo 50 miliardi in più, l'equivalente di 5 manovre finanziarie. Per cui, pur sapendo e ricordando che questo è il paese dell'evasione fiscale, del nero, altra cosa però è esprimere un commento su quello che fa l'Agenzia delle Entrate di Equitalia, perché il rischio, la critica, è che poi vengano colpiti o vessati, come dicono i soggetti, quei cittadini che sono già noti al fisco, mentre la lotta al nero, all'economia sommersa, all'economia criminale e anche, se vogliamo, ai patrimoni, li ricorderemo poi più avanti, non viene mai fatta, non viene fatta con la stessa forza. Di questo parleremo in apertura. Ancora, dopo la borsa di cui adesso vi aggiorno, toccheremo il tema spagnolo. C'è chi l'ha chiamata la rivoluzione degli indignati, in realtà sono giovani spagnoli, la disoccupazione in Spagna è altissima, è al 21-22%, ma tocca il 44% per chi ha meno di 25 anni, è un record europeo. Ancora parleremo nella seconda ora del programma invece di temi internazionali, perché è appena iniziata la conferenza stampa, sta per iniziare la conferenza stampa di Barack Obama, è un po' slittata, dovrebbe annunciare un vero e proprio piano Marshall nei confronti dell'economia americana, e del primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda anche le vicende Banca Centrale Europea e Dominique Strauss-Kahn. Oggi formalmente si è dimesso e la candidata più forte resta il ministro dell'economia francese Christine Lagarde. L'America non è contraria che sia un europeo a guidare il fondo monetario, con una battuta potremmo dire meglio una donna a questo punto, e non è contraria neanche la Germania che sia un candidato francese. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. chiaramente ho detto piano Marshall americano, non è il piano Marshall per l'America, è il piano Marshall per i paesi medio orientali, lanciato dall'America. Chiedo scusa per il refuso. La borsa, più 0,30% Milano, più 0,90% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,60% Londra, meno 0,1% l'America, euro a quota 1,4251. Milano cresce meno delle altre borse, ma non per un motivo particolare. C'è un po' di debolezza sulla Popolare di Milano, meno 1,21%, sul Banco Popolare meno 0,88%, su Bibanca meno 0,60%, Tenaris perde l'1,1% come Mediolanum, Fiat perde lo 0,80%, Pirelli lo 0,36%, ma ripeto, non ci sono casi eclatanti. Sul fronte di chi guadagna segnaliamo Azimut più 1,75%, STMicroelectronics più 1,40%, Fiat più 1,1%, Snam Rete Gas più 1%, come Telecom Italia, Fondiaria SAI, Mediobanca più 0,80%. L'oro è poco mosso, è sempre a quota 1497 dollari l'oncia, quindi sotto i 500, sotto i 1500 dollari l'oncia. E ancora il petrolio apre stabile a New York, 100 dollari secchi l'apertura. L'effetto del sisma e dello tsunami in Giappone, iniziano a farsi i conti. E allora, Giappone meno 0,9% il PIL nei primi tre mesi dell'anno, e meno 3,7% rispetto all'anno prima. Praticamente la ripresa nel 2011, secondo il ministro dell'economia giapponese, porterà un più 1% in Giappone, non si andrà oltre questo. Tonfo dei turisti, come era immaginabile, in Giappone meno 60%. Praticamente i visitatori stranieri sono scesi in Giappone agli stessi livelli che avevano al tempo dell'epidemia della SARS. E tra l'altro in Giappone si è deciso, per risparmiare energia, di attivare la produzione delle fabbriche anche nel weekend, lasciando alcuni stabilimenti chiusi il giovedì e il venerdì. Il lavoro verrà fatto sabato e domenica. È un regime straordinario deciso dall'Associazione Nipponica dei Produttori di Auto, in modo che anche l'industria dell'auto giapponese possa contribuire alla riduzione di consumi elettrici sulla scia proprio dell'emergenza energetica innescata dallo tsunami dello scorso 11 marzo. Nel frattempo la Takeda Pharmaceutica, gruppo colosso giapponese, ha annunciato l'acquisto della concorrente svizzera Nicomed. Pagherà 9 miliardi e 600 milioni di euro per comprarsi la concorrente svizzera. È una delle più grandi operazioni in assoluto mai fatte all'estero da una società giapponese, e che creerà il decimo gruppo nella farmaceutica a livello mondiale. Di Strauss-Kahn abbiamo detto, si è dimesso formalmente. John Lipsky manterrà la funzione anche di direttore generale ad interim. Presto arriverà la decisione su chi sarà il candidato. Ripeto, Christine Lagarde è quella che è messa in pole position, ministro dell'economia francese. Della Spanish Revolution, a me non piace chiamare rivoluzione una cosa che è appena iniziata, ma insomma di questi migliaia di giovani indignados che attraverso internet si sono ritrovati nelle piazze di più di 50 città spagnole. Parleremo tra un attimo. C'è chi la chiama generazione Tahrir, sull'esempio della piazza egiziana. Comunque il dato, la notizia c'è, e c'è tutta. Tra l'altro in Grecia si stanno registrando manifestazioni analoghe, anche perché il ministro delle finanze greco George Papa Costantinou sta per presentare un nuovo pacchetto di misure di lacrime e sangue, in cui dovrebbe praticamente riuscire lo Stato greco a risparmiare fino a 6 miliardi di euro entro fine anno. Chiuderanno molti enti statali, licenzieranno quindi dipendenti, non verranno rinnovati i contratti di lavoro a termine che stanno per scadere, il congelamento delle assunzioni nel settore pubblico continuerà e verranno privatizzate alcune società pubbliche come l'OTE, che è la Telecom greca, e la DE, che è l'Enel greca. E poi la polemica con Angela Merkel, la cancelliera tedesca ha detto, insomma, i greci dovrebbero anche lavorare di più e fare meno vacanze. Apriti cielo, comunque la classifica è molto facile. 30 giorni l'anno in media le ferie in Germania, in Italia siamo a 31 giorni, quindi siamo come tedeschi. Francia e Finlandia 40 giorni, gli spagnoli 36, il Portogallo 35, la Grecia 37, quindi insomma, una settimana in più rispetto ai tedeschi. Ma mi sembrano battute un po' così, legate agli stereotipi. La Grecia non sta nelle condizioni in cui è per le troppe vacanze dei greci, ma perché hanno truccato i conti in maniera indegna, insomma, barando su tutto. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms. Passiamo al primo tema, la vessazione fiscale, l'oppressione fiscale, ribadendo che la linea di questo programma resta di lotta e di contrasto all'evasione. L'evasione è patologica in questo paese, non ci sono scusanti. Altra cosa è come si va a riscuotere le tasse e l'atteggiamento che il fisco ha con i contribuenti. Visto che parliamo di evasione, però fatemi agganciare un tema che c'entra forse poco, direte voi, mica tanto. Dobbiamo di nuovo gratitudine a Sergio Rizzo oggi sul Corriere, che ha individuato una cosa molto interessante. Insomma, quanto costa Palazzo Chigi? Al di là di tutta la retorica sulle spese della politica, che quando uno ha l'opposizione, ecco, la casta. Poi insomma, al di là del fatto che le province siano tutte aperte, anzi se ne siano aperte di nuove, al di là del numero dei sottosegretari che sono stati fatti negli ultimi 5 mesi, allora, nel 2009 il personale non dirigente di Palazzo Chigi è costato 131 milioni di euro. Voi direte, tanto poco? Non lo so, so che è il 22% in più rispetto al 2007. Non la voglio buttare in politica. Nel 2007 governava Prodi, nel 2009 governa Berlusconi. I dati sono questi: più 22% il costo del personale. Gli stipendi valgono in media 43.000 euro l'anno, sono del 56% più alti rispetto a quelli erogati nei ministeri. Quanti dipendenti ha Palazzo Chigi? Facciamo un test. Chi non ha letto l'articolo, non vi rispondo, mandate un messaggio a 349-238-6666 in onestà, se non sapete quanti sono. Vediamo chi si avvicina di più. Non vince niente, vince solo, diciamo, il realismo. Quanti sono i dipendenti di Palazzo Chigi? La risposta ve la darò, diciamo, fra 10 minuti, dopo il metro e la pubblicità, perché adesso invece vorrei parlare del fisco. Lo scorso 12 maggio a Cagliari oltre 10.000 persone si sono ritrovate per la manifestazione delle partite IVA contro le cartelle, le ganasce fiscali di Equitalia. Dal Sulcis Iglesiente, dove stanno chiudendo alcune attività commerciali, ma non solo, sono arrivate moltissime persone. Chiedo, prima di ascoltare Tremonti oggi e anche Attilio Befra, chiedo al collega Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Buonasera. Di aiutarci a fare il punto in maniera, diciamo, non demagogica, non così sensazionalistica. Che cosa sta succedendo? Perché Equitalia sta diventando la bestia nera di molti contribuenti, fermo restando che l'evasione in questo paese è patologica? Io credo che sia una concomitanza di cause. C'è una crisi economica che, soprattutto in certe aree del paese, e purtroppo sono ancora tante, miete tante vittime e non si riesce a trovare una via d'uscita. Dall'altro c'è l'esigenza di Equitalia, che è il terminale del percorso di recupero dell'evasione e di accertamento fiscale, di ottenere determinati obiettivi. Lo scorso anno Equitalia, Agenzia delle Entrate, INPS hanno incassato 25 miliardi di euro, e ancora poco si dirà rispetto alla mole dei numeri dell'evasione che prima hai ricordato. Intanto è un dato notevolmente in miglioramento rispetto agli ultimi anni, quindi non ci si può lamentare se le istituzioni che sono come dire, a presidio del recupero delle imposte fanno e finalmente cominciano a fare il loro lavoro. Altro discorso ovviamente è quando, per raggiungere determinati obiettivi, si estremizzano certi comportamenti. Veniamo lì. Allora, che cosa sta capitando? Nel senso che poi citerò anche i dati sulla lotta all'evasione, sull'evasione in questo paese, perché a mio avviso il problema, vorrei però una conferma da parte tua, è che il fisco, purtroppo o per incapacità, ha la cattiva abitudine di poi puntare e attenzionare, direbbero in questura, chi già conosce, mentre noi continuiamo a registrare tassi di assurdi, di sproporzione tra i redditi dichiarati e patrimoni posseduti, barche, case e quant'altro. E fra poco li leggo. C'è questa tendenza e perché si lamentano dei pignoramenti? Qualcosa è cambiato in Equitalia rispetto agli ultimi anni? È cambiato che dal 2007 si è ritornati da quella che era la struttura privatistica delle agenzie, delle banche che operavano la riscossione, è stata portata in mano pubblica, ma è stata dotata la struttura pubblica Equitalia nelle sue varie articolazioni territoriali di strumenti più invasivi, più pervasivi, qualcun altro direbbe più efficaci per il recupero dell'evasione. Dal punto di vista proprio, se vuoi, di storia dell'economia quotidiana degli italiani, è successo che le piccole multe, le tante multe, non a caso poi Befera, certo, faranno riferimento proprio ai comuni, prima venivano in qualche modo riscosse attraverso i pignoramenti in casa. La riscossione entrava in casa e pignorava il mobile, la TV. Questo meccanismo si è capito che non funzionava, non dava i risultati, e allora si è introdotto il meccanismo delle ganasce fiscali, del fermo amministrativo, che è uno strumento assolutamente pervasivo, efficace, che crea tra virgolette allarme sociale per chi magari la multa non la paga, ed è il primo segnale di pericolo, di una incapacità del contribuente di versare le imposte, di una non volontà di pagare le imposte. Per cui la prima cosa che si fa quando arriva la cartella esattoriale, passa il periodo che viene riconosciuto per pagare, è quello di bloccare l'auto. Un motoveicolo registrato, qualsiasi bene, insomma chiunque oggi ha un'auto è un motoveicolo, e quindi è da lì che nasce questa reazione, questa ribellione contro le ganasce fiscali. Ma è vero che poi ci sono casi di immobili, che siano capannoni o case, che vengono messe all'asta senza che nemmeno la persona ne sia consapevole? Io escludo questo, c'è tutto un percorso, diciamo che è l'atto finale. Chiaramente, se pensi alle case, è possibile ipotecare una casa per un debito che nasce semplicemente superiore a 8.000 euro. Ora, considerando il valore delle case, ci si può ritrovare effettivamente con un'ipoteca per un debito di 10-20.000 euro su una casa che magari ne vale 200.000. Però ecco, ripeto, è l'esito di un percorso molto lungo in cui il contribuente deve essere messo nelle condizioni di pagare. Se poi non paga, quella è la conseguenza. Allora, l'oggetto, e poi adesso sentiamo le dichiarazioni, è Equitalia o Esatri? Perché qui c'è un po' di confusione anche negli ascoltatori che scrivono al 349-238-6666. C'è il soggetto che in questo momento viene accusato di pratiche vessatorie, di appunto portare sul lastrico, è Equitalia o Esatri? No, perché Equitalia, molti scrivono... Esatri è un'articolazione di Equitalia. Equitalia è l'agente della riscossione che opera, diciamo, a valle, mentre a monte opera l'agenzia delle entrate che fa già gli accertamenti, verifica quanti soldi Marco Belinazzo non ha pagato e affida ad Equitalia il compito di recuperare questi soldi. Equitalia la affida alla sua articolazione territoriale, e se io non pago mi pignorano per prima cosa l'auto, e se il debito è oltre gli 8.000 euro mi possono ipotecare anche la casa. Sta a me pagare o non pagare. È chiaro che se io non ho i soldi o avrò la possibilità di rateizzare, oggi sono rateizzate oltre 15 miliardi di imposte, però se non hai soldi gli interessi si cumulano ed è un cancane. Sì, qui scatta il problema della crisi, cioè andare a vedere, insomma, allora, qui c'è un altro fronte che alcuni segnalano. Esatri ha questo atteggiamento, Equitalia, in cui va rapidamente ai pignoramenti. Ci sono 40 miliardi di euro che la pubblica amministrazione deve ai privati, ne parleremo in una puntata apposta, perché il factoring di questo si occupa soprattutto sanità. Il 70% di questi soldi sono sanità. È vero che lo Stato, se volesse essere, diciamo, completamente privo di critiche, dovrebbe almeno pagare con gli stessi tempi con cui fa i pignoramenti, no? C'è da dire che con un provvedimento del 2008, 2009, 2010 sono state sostanzialmente bloccate, molto limitate le compensazioni che il contribuente può fare quando ha un credito nei confronti dello Stato. Parliamo di crediti tributari. È previsto un decreto che dovrebbe consentire anche di compensare le imposte, non pagare le imposte quando hai crediti nei confronti della pubblica amministrazione e della sanità. Il decreto a un certo punto non è stato più fatto perché ci si è resi conto che la mole dei crediti era talmente tanta che, insomma, sarebbero state create gravi difficoltà alle entrate pubbliche. Allora, sentiamo che cosa ha dichiarato oggi il ministro Tremonti, riconoscendo che ci sono troppe ganasce. Sentiamo la battuta al microfono della nostra Alessandra Schepisi sul fatto che vi siano troppe ganasce fiscali a margine del convegno per ricordare i 10 anni delle agenzie fiscali. Ci sono troppe ganasce e a volte troppi interessi e sanzioni calcolati in modo che non dà un risultato positivo ma negativo. Ve la rimetto in termini televisivi. Meno ganasce, meno interessi passivi addebitati e un sistema fiscale più vicino alla condizione reale di tanti cittadini. Sì, poi c'è chi scrive, dice, ma insomma, a me Lesatri ha fatto un fermo amministrativo senza avvisarmi, me ne sono accorto dopo anni che dovevo vendere la macchina. Io lì starei attento, non vorrei che poi il cattivo funzionamento della burocrazia italiana creasse anche distorsioni e mostri, perché questo ci segnalano molti ascoltatori. Comunque sentiamo anche Tremonti che chiede un sistema fiscale più vicino alla condizione reale di tanti cittadini. Ci deve essere un po' un limite nell'applicazione delle ganasce. L'idea in sé non è oggetto di discussione, ma oggettivamente, per colpa nostra, ma c'è un eccesso di applicazione delle ganasce. Tra l'altro, il discredito, comunque la reazione civile è sul governo, quando di solito sono forme di, come dire, di esecuzione fatta per conto dei comuni, se le facessero loro. E anche questo è federalismo. Ci sono delle forme di calcolo degli interessi che ricordano molto da vicino l'anatocismo, sono anatocismo. Sono forme che non portano rigore nel sistema fiscale, portano discredito. Ci sono forme di calcolo delle sanzioni che sono nell'istantaneo un calcolo e un tasso di interesse che non capisci se è davvero un interesse o una sanzione. Io credo che in questi giorni il Parlamento abbia l'opportunità di modificare alcuni di questi elementi e credo che sia l'avvio di un processo che deve arrivare per via di riforma, alla riforma sostanziale del sistema, ma anche alla riforma nella logica del testo unico, alla riforma del sistema fiscale. L'anatocismo, sia il calcolo degli interessi sugli interessi. Tremonti dice sì. Lo facciamo per i comuni, in realtà, perché cosa succede quando tu non paghi una multa a un comune? Questo finisce dopo un po' a Equitalia e quindi all'Esatri. E quindi se ne occupassero loro, perché poi diciamo il danno politico ce l'abbiamo noi. Ma soprattutto ragiona su questo calcolo degli interessi. Quanto valgono? Beh, pensa che ora c'è un sistema per cui se ti arriva un accertamento e non paghi entro 60 giorni, rischi di pagare il 9%, questo a prescindere poi dal calcolo delle sanzioni. Per di più, dal 1 luglio non ci saranno nemmeno più le cartelle esattoriali, ma basterà il semplice atto di accertamento e dopo 30 giorni, se non paghi, avrai un interesse del 9%. Ripeto, poi c'è da calcolare le sanzioni in base al tipo di infrazione, comunque non è quasi mai inferiore al 30%. Dunque è un sistema molto complesso. Io tra l'altro, prima di scendere qui, ho raccolto qualche indiscrezione proprio su quali potrebbero essere le correzioni. Si parla di emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto sviluppo. Per esempio sulle ganasce fiscali potrebbe essere stabilito un limite di valore, così come per le ipoteche, quindi si potrebbe stabilire per esempio che sotto un debito di 1000 euro non si applica il fermo amministrativo. Questa per esempio è una soluzione che si sta studiando. Ripeto, il problema è che qui tutte le agevolazioni, le rateizzazioni che si possono concedere trovano poi un muro quando c'è una difficoltà economica, però credo che non sia a quel punto un problema di chi riscuote le imposte, ma sia un problema proprio sociale ed economico. Sì, però bisogna anche ragionare un po' come per gli studi di settore, che per carità sono uno strumento, poi devi anche andare a calarti nelle situazioni, perché è chiaro che la crisi ha fatto morti e feriti in parte del paese. Giustamente alcuni ascoltatori faranno notare che una cosa sono le multe, le altre sono le tasse, e avete ragione, l'abbiamo solo citato perché Equitalia poi va a riscuotere anche le multe dei comuni. Il meccanismo di riscossione è identico, è lo stesso, per cui. Allora, adesso c'è il meteo, poi vi leggerò sul fronte evasione che cosa non torna. Molti di voi ci hanno scritto dopo la puntata del Salone del Libro di Torino, in cui Mario De Aglio disse: beh, ci vorrebbe una patrimoniale. Insomma, qui bisognerà anche che prima o poi un governo e una classe politica abbia il coraggio di ragionare, a costo anche di perdere un po' di consenso, se conviene continuare a tassare il reddito da lavoro o non sia il caso di iniziare a tassare anche un po' in piccola parte i patrimoni. È solo una riflessione, non sto dicendo quello che andrebbe fatto, ma sicuramente noi abbiamo una tassazione sul lavoro prodotto altissima, al 47% di media, e abbiamo una grossa evasione sui patrimoni, come vi racconterò dopo il meteo. ...17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche alla borsa. Vorrei concludere il tema della vessazione fiscale, dell'oppressione fiscale, però avevo promesso che vi avrei anche raccontato perché in questo paese abbiamo un fisco vessatorio, insistente, troppi controlli, IMS, INAIL, e poi arriva l'Agenzia delle Entrate, però abbiamo anche un tasso di evasione che è anch'esso fuori controllo. Bene ricordarsi di questi dati, al di là del fatto che in Italia l'imponibile medio sia di 18.870 euro lordi, pensate che ci sono un milione di auto che hanno una cilindrata superiore ai 2.500 cc, quindi auto che costano diciamo dai 35-40 mila euro in su. Ci sono 94.000 barche sopra i 10 metri, quindi anche qui non stiamo parlando di piccoli motoscafini da diporto, eppure sono solo 13.000 i contribuenti che dichiarano di guadagnare più di 200.000 euro lordi, o meglio sono 75.000, ma siccome 62.000 sono pensionati e quelli vengono beccati, o pensionati o dipendenti, i non dipendenti, cioè chi non ha la busta paga, chi deve fare la dichiarazione redditi vera e propria, sono solo 12.000 i lavoratori autonomi che dichiarano di guadagnare più di 200.000 euro lordi l'anno, e sono solo 160.000 i lavoratori non dipendenti e non pensionati che dichiarano di guadagnare più di 100.000 euro lordi l'anno. Allora qualcosa non torna, ci siamo su questo, insomma. Un milione di auto in quel modo e 94.000 barche, dovremmo ritenere che insomma tutti quelli che guadagnano 300-200.000 euro lordi l'anno si mettono assieme a chi ne guadagna più di 200.000 e riescono a comprarsi una barca più di 10 metri. Ragazzi, per favore. Detto questo, Marco Berinazzo, ascoltiamo anche Befera, Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha detto sì, in effetti noi vogliamo un atteggiamento spontaneo dei contribuenti. Al di là del recupero diretto dell'evasione fiscale, comunque necessario, il nostro sforzo è principalmente rivolto alla tax compliance, cioè ad ottenere il massimo livello di adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. Solo favorendo lo sviluppo di una maggiore coscienza civica si può assicurare l'incremento duraturo del gettito. Non a caso, proprio per stimolare la coscienza fiscale dei cittadini di domani, siamo presenti da anni nelle scuole con il progetto Fisco in Classe. Sempre in questa prospettiva, la nostra azione mette costantemente al primo posto il rigoroso rispetto dei contribuenti. Da questo punto di vista, siamo convinti che la capacità di autocritica, bene piuttosto scarso tra i singoli, così come nelle istituzioni e nelle organizzazioni, la capacità di autocritica, dicevo, ci rafforza anziché indebolirci. E questo per il semplice motivo che la forza di una grande istituzione come la nostra dipende dalla fiducia della comunità di cui siamo al servizio. Ma al di là di singoli episodi, cui dobbiamo comunque prestare la massima attenzione, il punto saliente è che la professionalità del nostro personale merita fiducia. La consapevolezza della necessità di avvicinare il fisco ai cittadini e di ridurre i costi e i tempi degli adempimenti ci ha guidato nell'ardua impresa di porre la semplificazione come pietra angolare dell'edificio in costruzione. Vabbè, un po' di retorica, però insomma, la domanda, Marco Berinazzo, viene anche dagli ascoltatori. Noi Tremonti lo abbiamo difeso, non ne ha nessun bisogno, abbiamo riconosciuto quanto abbia fatto per i conti pubblici, la messa in sicurezza dei conti pubblici, il rigore e quant'altro. Però sul fronte fiscale, fammi capire, è Tremonti che ha dato in questi 3 anni indicazione a Befera e quindi l'Agenzia delle Entrate, a Equitalia, di muoversi in un certo modo, così come è stato Tremonti a organizzare lo scudo fiscale, 105 miliardi di rimpatriati illegalmente portati fuori, rimpatriati anche solo formalmente, pagando un niente, il 5%, è il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha detto all'Agenzia delle Entrate come muoversi. Allora, non vorrei che poi il cerino restasse in mano a Befera, mettiamola così. Beh, il governo è... Io capisco che siamo in campagna elettorale, capisco tutto, capisco che vedere migliaia di sardi davanti a Equitalia non porti certo consenso, però insomma ricordiamoci anche chi ha la paternità delle cose. Beh, è il governo e il Ministero dell'Economia che indica gli obiettivi di recupero dell'evasione all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate è il braccio operativo, questo è quanto. Non per difendere Befera, ma insomma ha scritto negli ultimi mesi ben 2 lettere aperte ai propri funzionari per consigliargli un'attività prudente di riscossione, insomma, quindi però è anche un segnale che forse ha colto che qualche problema c'era. Secondo me c'è una incongruenza nella politica economica e fiscale in relazione alla lotta all'evasione. Lo strumento principe, ci è stato detto per molti mesi, doveva essere il redditometro. Il redditometro aspettiamo ancora di conoscere come verrà costruito. Ma quello è uno strumento fondamentale, anche perché, se ben ricordo, dentro il redditometro entrerà anche un concetto che a noi sta molto a cuore, di coefficiente familiare in qualche modo, cioè guadagnare 100. Allora, io citavo prima le cifre, no? Ci sono solo 13.000 lavoratori non dipendenti e non pensionati che dichiarano più di 200.000 euro lordi l'anno, e sono solo 150.000 quelli non pensionati e non dipendenti, quindi che tra virgolette possono evadere, che dichiarano più di 100.000 euro lordi l'anno. È ovvio che avere 120.000 euro lordi l'anno con 4 figli è un po' diverso che averli, diciamo, da single o con una moglie che lavora senza figli. Prego. Il redditometro... O con la casa di famiglia, o se la casa te la devi comprare, e con la casa in villeggiatura di famiglia, o se la devi comprare. È questo che ci interessa. Il redditometro doveva e dovrebbe misurare il tenore di vita e relazionarlo al reddito dichiarato, pesando, così è scritto nella legge, quella che è la situazione familiare, quella che è, diciamo, la collocazione geografica del contribuente, e in base appunto a dove vive, a quanti figli ha, a qual è la sua situazione familiare, quante persone a carico ha, prevedere, presumere un certo reddito. Cioè si presume che tu debba spendere un tot, e quindi se dichiari meno del 20%, insomma 20% in meno rispetto a quanto spendi, scatta il campanello d'allarme. La tax compliance, cui faceva riferimento Befera, doveva misurarsi in questo. L'Agenzia delle Entrate doveva predisporre un software che doveva essere poi recuperabile da parte di tutti i contribuenti sul sito dell'agenzia. In base a questo software tu potevi inserire qualche elemento, insomma, relativo al tuo reddito, e come in un giochino elettronico ti veniva fuori se eri congruo o non congruo. A quel punto sapevi che eri a rischio, e quindi in qualche modo, se sapevi di avere delle magagne, cioè, inserivo 50.000 euro di reddito lordo, vivo in questa città, però vivo in pieno centro, ho un mutuo da 2.000 euro poniamo, e ho una casa, che ho una macchina che ne costa nuova, seminuova, che mi è costato 2 anni fa 50.000 euro, iniziava a essere poco congruo. Sì, il sistema, no, ma è così, molto semplice, ma doveva funzionare così. Il sistema ti diceva: attenzione, Barisoni dovrebbe guadagnare in base a questi parametri 90.000 euro, ne ha dichiarati 50, c'è qualcosa che non torna, chiamiamo Barisoni, gli offriamo le garanzie del contraddittorio e gli chiediamo spiegazioni. Però ci spiega come fa ad avere questo mutuo con questo reddito. A chi scrive: attenzione, le auto sopra 2500 cc, sappiamo che alcuni ce l'hanno di 10 anni usata, di terza mano, si sta parlando delle immatricolazioni. Per favore, non neghiamo che abbiamo tassi di evasione fuori da ogni media europea. Grazie a Marco Bellinazzo, vedremo se dopo arriverà questo appunto, questo disegno di legge, questo emendamento dentro il disegno di legge sviluppo, con modifiche sulle ganasce fiscali, sull'immediatezza delle cose. Torneremo a occuparcene. Grazie al collega. Grazie a voi. Del Sole 24 Ore, traffico e poi la borsa. 349-238-6666. Allora, molti messaggi sull'evasione, sulle ganasce fiscali e quant'altro. Adesso dobbiamo parlare di borsa. D'accordo che non vadano criminalizzate alcune categorie, quindi inutile parlare genericamente di artigiani, di commercianti. Ci sono piccolissimi artigiani e commercianti che sopravvivono delle volte più che vivere, così però allo stesso modo non generalizzate sugli avvocati e su altre figure professionali. Cioè, insomma, è chiaro che ci sono diversi casi di lavoratori autonomi. Verissimo che quando si parla di tassare, diciamo, il patrimonio, non solo il reddito prodotto, bisognerebbe guardare anche i patrimoni investiti in finanza, e in effetti abbiamo sempre detto che una legge fatta in maniera accorta, non a tassare il bot della vecchietta, ma chi tiene uno strumento finanziario per meno di un anno, perché deve essere tassato al 12,5%? Chi fa una speculazione giorno su giorno, perché non può avere una tassa al 20% sul guadagno come c'è nel resto d'Europa? Non c'entra nulla la vecchietta, prima che me lo scriviate, la vecchietta, la pensionata, il risparmiatore, il cassettista di solito compra un'obbligazione, compra un'azione e la tiene almeno un anno, stabiliamo una data, ma quello che fa il guadagno intraday, come si chiama in gergo, o nella settimana, secondo me, essendo pura speculazione finanziaria, potrebbe avere una tassazione superiore al 12,5%, questo sì, come negli altri paesi. Tanto non scappano i capitali, chi vuole è già andato fuori, e negli altri paesi sono al 20%. Borsa. Allora, tantissimi messaggi, più 0,54% l'indice il FTSE MIB, più 1,25 Parigi, più 0,70 Francoforte, più 0,50 Londra, l'America è invariata. Ceo Condina, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. E dopo alcuni dati americani sulla disoccupazione, i sussidi sono calati e anche sul pendice economico non è andato malissimo. Partenza col botto per LinkedIn al New York Stock Exchange, quotato a $45 per azione, il titolo vale già $92,9 per azione, più 100%. Bene, oggi alcuni bancari tranne le popolari a Milano, cioè, come mai? Ma diciamo che sulle popolari forse hanno ancora acceso il faro degli operatori, perché sono poi quelle che effettivamente devono dare prova di efficienza e di una maggiore capitalizzazione assunta anche dopo gli aumenti di capitale, che nel caso della popolare di Milano, che è poi la peggiore del listino, meno 1,3%, è tutto da fare. Invece altri finanziari, ad esempio come Unicredito, che ha messo a segno un trimestre in decisa crescita, ad esempio come Mediobanca, hanno registrato rialzi superiori al punto percentuale. Poi c'è anche Intesa San Paolo che oggi guadagna lo 0,2%, ma c'è grande attesa per quanto riguarda questo titolo, perché un consiglio di gestione attualmente in corso deciderà quale sarà il prezzo di collocamento per l'aumento di capitale da 5 miliardi che partirà lunedì. Non ho dimenticato, lo dico a chi scrive, che devo darvi il numero dei dipendenti di Palazzo Chigi. Avevo detto dopo il metro, lo diamo adesso prima del GR. Sono arrivate tantissime indicazioni, alcune ahimè naif e così, un po' di chi si illude. Comunque andiamo avanti con la borsa. ST Microelectronics e Azimut, più 1,70 Azimut, più 1,50 ST Microelectronics. Sì, sono i due migliori titoli del FTSE MIB oggi, e per entrambi vale lo stesso ragionamento, un rimbalzo dopo dei cali significativi nelle ultime settimane. Basta pensare che ST da inizio marzo ha perso qualcosa come il 17%, da inizio maggio invece Azimut ha perso più del 10%, quindi ST più 1,5, cavalcando anche il buon momento dei chip oggi in borsa in tutta Europa, Azimut più 1,7%. Ancora, anzi no, facciamo dopo il GR, però vi devo dare il numero di dipendenti di Palazzo Chigi, se no alcuni cambiano o giustamente hanno altri impegni. C'è chi ha scritto 50, c'è chi ha scritto 120, 190, e lì siamo nel mondo delle fate, lasciatemelo dire. C'è chi ha scritto 1000, 1000 già poteva essere un numero esatto di dipendenti di Palazzo Chigi, ma non in Italia, non con l'aumento dei dipendenti degli ultimi 2 anni. Perché? Perché il numero esatto è molto più alto, i dipendenti di Palazzo Chigi sono 3.423, di cui 346 impiegati, 377 dirigenti, e appunto la spesa è aumentata del 22% negli ultimi 2 anni. E dopo aver rovinato il pomeriggio alcuni ascoltatori, GR, io mi prendo una pausa, non dico cosa faccio perché sennò mi accusano le associazioni, e poi ci risentiamo alle 18:07. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Moltissimi gli sms che stanno arrivando sul tema fiscale, non riesco obiettivamente quasi a gestirli. Alcuni dicono che sostanzialmente evadere legittima difesa, che con questo tipo di fisco è difficilissimo rispettare gli adempimenti. L'unica considerazione che vedo, c'è chi cita 10% di sanzione per un giorno di ritardo sul versamento IRPEF, in effetti arrivano molte segnalazioni in questo senso e sono tante. Per il resto vedo ancora tutto un insieme di lavoratori autonomi e dipendenti che lamentano invece di essere tassati fino all'ultimo euro e di non poter, tra virgolette, evadere. Vabbè, restiamo sulla borsa e poi sui dipendenti di Palazzo Chigi non ho altro da dire. Sono 3.400, ripeto, 3.423, di cui 3.046 impiegati e 377 dirigenti, quindi più di uno su 10. Volete sapere quanto è l'equivalente in Gran Bretagna? Beh, è un terzo, 1.337 persone lavorano a Downing Street, di cui 198 dirigenti. La proporzione sui dirigenti è simile, il problema è che sono un terzo dipendenti. A Downing Street evidentemente c'è più lavoro da fare a Palazzo Chigi. E adesso la borsa di nuovo e con Ceo Condina. Buonasera Ceo. Buonasera a voi. Allora, eravamo rimasti a Azimut e Microelectronics, Telecom Italia più 1,48 l'abbiamo commentata, no, ma ricorda sia praticamente alla chiusura si è fatto più 1,48%, Snam Rete Gas più 1,35%. Oggi recuperano sia Exor che Fiat. Sì, perché dovrebbe essere il gran giorno del rifinanziamento del debito di Chrysler, sono settimane che si parla di questa operazione, ma nelle prossime ore dovrebbe essere sostanzialmente ufficializzata, diciamo, attingendo ai prestiti bancari e ottenendo condizioni migliori. La casa automobilistica americana, di fatto controllata da Fiat, rimborserà 7,5 miliardi di debiti ai governi americani e canadesi, un'operazione quindi che migliorerà il profilo finanziario del gruppo e che viene premiata dalla borsa. Ancora per quello, sì, continuo a leggere messaggi sulle sanzioni del 50% per il ritardo di 3 giorni sul versamento ICI del 2006. Avete ragione. Segnalo tra i migliori e i peggiori in assoluto, invece, anzi, prima dei migliori e peggiori vorrei ancora dare due titoli, perché Tenaris perde l'1,14%, ma deve anche pagare una multa da 5 milioni di euro, se non ho capito male. Sì, infatti è stata multata appunto dalla SEC, 5,4 la SEC è la Consob americana. Sì, per aver pagato, almeno questa è la tesi della SEC, funzionale del governo dell'Uzbekistan in alcune gare del 2006-2007. Fondamentalmente, insomma, viene accusata di corruzione e da qui la multa di 5,4 milioni. Il migliore peggiore in assoluto, Edes più 20,9%, Cell Therapeutics più 9,7%. Seat sul risparmio più 4,5%, Class meno 6,75%, Ciccolella meno 5,61% e poi Montefibre meno 5%. Edes sulle montagne russe ormai. Sì, ormai ieri aveva perso molto, oggi ha riguadagnato, insomma è una società immobiliare che sta cercando un doloroso tentativo di recupero, che è associato anche a un ridimensionamento. Recentemente anche in un'intervista sulle 24 ore il numero uno della società aveva di fatto ammesso che c'era un ridimensionamento della società, che la vorrà rilanciare senza tuttavia ricorrere a un aumento di capitale. Insomma, il mercato ancora non ha deciso chiaramente, diciamo, insomma, la direzione della società, e quindi un giorno si vende, l'altro giorno si acquista. Da lì le oscillazioni sul titolo. Grazie a Ceo Condina, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso iniziamo e apriamo una doppia pagina di esteri vicini, intesi come Spagna, esteri un po' più lontani, intesi come il piano Marshall che Barack Obama dovrebbe annunciare, perché continua a slittare questa conferenza nei confronti dei paesi del Medio Oriente. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, sí, sí. vamos a estar aquí hasta el domingo. Si la policía nos desaloja o intenta desalojarnos nosotros pacíficamente, vamos a intentar quedarnos aquí. De esos jóvenes he aprendido, y llevan toda la razón del mundo, que este país no funciona. Alcune delle voci raccolte nella manifestazione che ha portato non tanto solo a Madrid, ma in 40 città spagnole gli indignados, ossia i giovani che non hanno un lavoro, sono il 44% di quelli che hanno meno di 25 anni in Spagna. Ce ne sono centinaia che occupano la piazza importantissima a Madrid, che è la piazza di Puerta del Sol. Anche i pensionati si sono riuniti. È un movimento chiamato 15 maggio, e si è allargato, ripeto, oltre che altre 40 città spagnole, anche sono previste manifestazioni da qui a domenica a Bruxelles, a Parigi, a Città del Messico, a Berlino, a Vienna, a Bogotà, a Buenos Aires, Edimburgo. In Italia per ora annunciate quelle a Torino e a Padova. Alcuni si sentono vicini agli egiziani di Piazza Tahrir, altri agli islandesi della cosiddetta rivoluzione tranquilla. Insomma, ci sono i grillini di mezzo. Vorrei collegarmi, la ringrazio, con la collega e corrispondente del Corriere della Sera da Madrid, Elisabetta Rosaspina. Buonasera Elisabetta. Buonasera a voi. Dove ti trovi in questo momento? Alla Piazza del Sol. Alla Piazza del Sol. Ecco, facci capire una cosa. È la disoccupazione giovanile in Spagna è da sempre altissima. Allora è un po' strano che queste manifestazioni partano oggi. È successo qualcosa che ci è sfuggito? No, in realtà non è specificatamente una manifestazione, un'occupazione, perché ormai è diventata un'occupazione di una piazza legata a una questione economica o a una particolare questione economica, e tantomeno alla sola disoccupazione. La disoccupazione, che è vero, in Spagna, soprattutto per quello che riguarda i giovani, è al 43%. È uno dei problemi generati da quella che qua viene considerata un sistema di reciproca influenza fra la politica e la finanza. Sì, perché quindi, molti cartelli sono contro le banche, anche abbiamo visto, no? Molti cartelli sono contro le banche, sono contro l'ingiustizia sociale, non dimentichiamo che qua c'è un problema grosso immobiliare, di case perdute per l'impossibilità di pagare l'ipoteca. Loro non vogliono essere definiti antisistema, ci sono dei cartelli qua intorno in cui si legge: non siamo antisistema, siamo cambia sistema. È una sfumatura, cioè sono contro questo sistema. Allora, e il profilo è del giovane terzomondista, no? Cioè che è contro l'ingiustizia sociale. Sì, resta la domanda a cui vorrei una risposta dopo il meteo e dopo il traffico, scusatemi, la pubblicità. Sul perché adesso, qual è la cosa che ha scatenato? Abbiamo letto che è una manifestazione, sono manifestazioni nate da un passaparola via internet, un po' sul modello, diciamo, del Nord Africa. Vorrei capire se c'entra anche l'appuntamento e la scadenza elettorale in Spagna. Dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barrisoni. Dunque, Elisabetta Rosaspina, corrispondente del Corriere della Sera da Madrid, si trova in Plaza del Sol in questo momento. Perché e come è nata, diciamo, con i social network, ma perché adesso, Elisabetta, manifestazioni così imponenti? Ripeto, 40 le città spagnole coinvolte. Fra tre giorni in Spagna si vota in 13 comunità autonome. I sondaggi da mesi ripetono che sarà la grande vittoria del Partito Popolare, quindi dei conservatori. Dal punto di vista della cronaca stretta, tutto è iniziato domenica scorsa, al termine di una manifestazione abbastanza contenuta dal punto di vista numerica della piattaforma Democracia Real IA, che l'aveva organizzata e che è un gruppo eterogeneo, diciamo apartitico. Al termine della manifestazione si erano alcuni dimostranti, alcune centinaia si erano fermati, seduti in mezzo alla strada, in mezzo alla Gran Via, erano stati spostati, sono venuti a Sol, se ne sono aggiunti altri, poi nella notte di lunedì sono stati sgomberati alle 5 del mattino con la forza dalla polizia. Questo ha innescato il tam-tam su internet di cui avete parlato anche voi, e ovviamente ha decuplicato l'affluenza. Ieri sera qui hanno calcolato circa 7.000 persone, in questo momento non ce ne sono molte, ma non è l'orario in cui di massima concentrazione. Sì. Verso ecco, tra l'altro pochi minuti fa ha parlato anche Zapatero, il premier socialista spagnolo, ha detto di ritenere che ci sono delle ragioni per la rivolta dei giovani indignados. Ci sono delle ragioni perché si esprimono in questo, perché si esprimono con questo scontento, con questa critica, lo ha affermato in una dichiarazione a Telecinco. Dobbiamo ascoltare ad essere sensibili, ma insomma, da quello che anche tu ci ricordavi, l'appuntamento elettorale rischia di essere un bagno di sangue per Zapatero. Diverso invece il ragionamento che fanno alcuni ascoltatori, che dicono: ecco, si sta allargando l'ondata del Nord Africa. Io andrei cauto, perché il Nord Africa e l'Egitto sono una cosa, la Tunisia un'altra, la Libia, insomma la Spagna non viene da diciamo, non ha mai avuto un faraone, ha avuto vari premier del centrodestra e del centrosinistra. Andrei cauto su questo. Grazie intanto alla corrispondente del Corriere della Sera da Madrid, Elisabetta Rosaspina, e diciamo dal vento del Nord Africa, dal vento di Piazza Tahrir, come alcuni dicono, spostiamoci al vento americano verso il Nord Africa. Sì, è vero che qualcuno ci ricorda una notizia che leggemmo qualche settimana fa, ossia Telefonica da un lato distribuiva mega dividendi e mega bonus ai suoi manager, addirittura una media di 500.000 euro a manager, con l'altra mano licenziava e ha licenziato 5.000 persone, Telefonica e la Telecom spagnola. E non a caso le proteste spagnole sono anche contro le banche, contro i grandi gruppi, con questa collusione, scrivono i cartelli, tra politica e grande finanza, grandi, diciamo, poteri dell'economia. Nel frattempo l'America si muove con un piano Marshall che dovrebbe annunciare in questi istanti. Barack Obama sta parlando, c'è Mario Platero, corrispondente sulle 24 ore dagli Stati Uniti, in collegamento con noi. Mario, buonasera. Buonasera. Sì, infatti, volevo provare a collegare quanto raccontava Elisabetta Rosaspina da Madrid con te, e cioè il piano Marshall che Barack Obama dovrebbe annunciare a momenti verso il Nord Africa è proprio per evitare che, diciamo, lo spontaneismo di queste manifestazioni diventi un problema poi di ordine pubblico? Beh, direi che è per evitare che certe rivoluzioni che si sono verificate, certe fiammate di movimenti spontanei popolari e cambiamenti che ci sono stati in certi regimi, mi riferisco in particolare alla Tunisia e l'Egitto, nel momento in cui non trovano poi un contrappunto di sviluppo economico, di aumento dell'occupazione, finiscano per ricadere all'indietro. Ecco, questo è un po' il senso del discorso del Presidente. Il Presidente sta facendo un discorso molto ampio dal punto di vista storico, nel senso che ieri abbiamo avuto qualche anticipazione dal punto di vista economico, ma il discorso ha un respiro storico, che è quello proprio di dire: bisogna che questi paesi si muovano in avanti e si aggancino allo sviluppo, perché ancora non si sono agganciati. Dunque le prospettive sono straordinarie, naturalmente, per i paesi europei che sono di fronte ai paesi del Nord Africa. Sono paesi che potrebbero avere uno sviluppo economico straordinario e ancora non l'hanno avuto. E quindi Obama parte dal presupposto che bisogna dare degli aiuti e incoraggiare e dare un segnale tangibile che questi cambiamenti sono apprezzati dall'Occidente e portano già dei risultati. Per cui all'Egitto, per esempio, ha deciso di cancellare $1 miliardo di debiti, ha deciso di dargli $1 miliardo di garanzie per prestiti che l'Egitto andrà a raccogliere sul mercato per poi trasferirli in progetti di sviluppo interno che dovrebbero appunto creare occupazione. Lo stesso ha messo in cantiere, seppure con cifre più piccole, per la Tunisia. E lo stesso ha fatto durante l'incontro con Re Abdallah di Giordania qualche giorno fa. Anche alla Giordania ha dato un pacchetto di aiuti di circa $1 miliardo e un trasferimento di 50.000 tonnellate di frumento. Quindi, e perché? Perché la Giordania si è già mossa verso un certo tipo di riforme, e quindi il Presidente ha giocato in anticipo dicendo: beh, quello che hanno fatto ci va bene. Un messaggio per quelli che stanno facendo il cambiamento: un messaggio per quelli che lo resistono. Beh, è interessante che l'America di Obama si preoccupi di dare, diciamo, garanzie e anche aiuti economici, perché è chiaro, è il ragionamento dal punto di vista geopolitico: va bene la rivoluzione di Piazza Tahrir, va bene che Mubarak se ne sia andato, attenzione però che questi processi vanno anche controllati, altrimenti destabilizzi l'intera area. Vedo che poco fa Barack Obama ha detto questa è una nuova generazione, quella che ha generato la rivoluzione nel Nord Africa, grazie anche ai social network, quindi riconosce lui stesso il ruolo dei social network. C'è preoccupazione per l'estendersi, Mario Pratero, o il possibile estendersi di quanto è successo in Egitto e in Tunisia anche altri paesi medio orientali, mi riferisco in questo caso soprattutto alla Siria? Beh, più che preoccupazione, direi è un auspicio. L'America auspica che la Siria riesca a liberarsi di Assad e che è il figlio, tra l'altro, del dittatore che ha, insomma, voglio dire, la famiglia Assad controlla la Siria ormai da una quarantina d'anni. E dunque ieri, in contemporanea, proprio a sottolineare quanto ci sia, se vuoi, il bastone e la carota, sono state messe delle sanzioni dal Dipartimento del Tesoro, che ha congelato beni di diretta proprietà e direttamente controllati da alcuni dei rappresentanti della nomenclatura siriana, quindi non soltanto Assad, ma anche alcuni generali, anche alcuni tecnocrati, e questi beni sono stati congelati. Non solo, ma si è detto che nessun cittadino americano potrà fare business, condurre affari né con queste persone, né con le compagnie che li rappresentano, né con la Siria. Questa è l'anticamera, secondo me, di quello che sarà una risoluzione delle Nazioni Unite, che so essere in discussione già da parecchio tempo e che probabilmente potrebbe venire poi a giorni. Secondo me verrà probabilmente prima della settimana scorsa, della settimana prossima, del G20 della settimana prossima. Grazie Mario Pratero, in collegamento con noi da New York. E ci avviamo alla conclusione, gli ultimi secondi del programma. Devo leggere un messaggio che non mi trova assolutamente d'accordo, perché scrive un ascoltatore: beh, in Italia 7.000 giovani si trovano insieme solo per i provini del Grande Fratello. Evitiamo di banalizzare sugli evasori, sui lavoratori dipendenti, sul pubblico impiego e anche sui giovani. Non è vero, ci saranno sicuramente 7.000 giovani che si trovano insieme per i provini del Grande Fratello, ma attenzione, non stereotipate e applicate categorie che non ci sono e che non hanno senso in questo momento. Noi assistiamo a fuga di giovani verso l'estero, a giovani che hanno lavori da 1.000 euro, a vecchi che non mollano la sedia. Insomma, questo è il paese, no? Non sono solo i 7.000 che vanno a fare il Grande Fratello. Un auguro di buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi, e adesso continua la programmazione di Radio 24. Un ringraziamento a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Radio 24, la passione si sente.